nessuno qua. E poi? CQ canale 10, c'è qualcuno in ascolto? Chi è avanti? Chi è avanti? Attenzione, canale 10, c'è qualcuno? Ora! Chi è avanti? C'è qualcuno su 10, cambio! Cos'era successo? adesso si è praticato, è stata l'antenna e si è formato un buco ed è scesa l'antenna a casa. Sono dovuto studiare e adesso me la metterò da parte come ce l'hai quando c'è un po' di tempo. Con Luca lo facciamo, là, e non si sente la costruzione. Perché io devo farmi il passo, devo fare la soldatura, tutto il trafalo, quindi non posso farlo da casa. Cosa gli hai messo al centro già al tappo? Cosa ne ho messo? Se te lo dico non ci scrivo. Ne ho messo quello che si mette quando tutto il rubinetto, ce l'hai preso te con le placche che si mette? Sì, sì, il tappo, sì, quelle placche lì. E come hai fatto già da, per affittarlo? No, non l'ho affittato, l'ho siliconato, e poi ricoperto tutto di silicone perché era cromato e non mi piaceva. Fatto una specie di cupola, una cupoletta di modo che l'acqua scivoli sopra. Già va bene, quanto non interessa. Mettila davanti già, tanto c'è quella piccola. La metti davanti dove c'è quella della radio. No, della radio non ne ho, devo fare il buco di nuovo. Dove c'è la plafoniera bisogna fare il buco e sistemare la radio. Perché il resto della, il resto del tettuccio è tutto quanto normale, era solo attorno all'antenna, praticamente. Arrugginito, attaccato al pochettone dell'antenna, capito? Attaccato, rimasto, e tutto il resto non è arrugginito. Già, se c'hai quella corda, mettila dietro al posto dell'antenna della, della radio e ti metti un, un'antenna portabollo, come avevo fatto io con l'Audi, o a bucare di nuovo, così ci sta bene me dietro, irradia molto bene. Ma non mi piace. Guarda, è facile perché basta togliere la placca della plafoniera e basta togliere quella, fare un buco, cosa ci vuole? E mettere il filo, basta, non è che sia niente, perché non voglio stare senza, c'è tutto quanto l'impianto, ho messo anche l'altro parlante, tutto l'altro, mi rompo le palette a togliere. E vabbè, se c'hai la plafoniera davanti, la lucetta, buca lì, togli il tappo e già è facile, dai. Vabbè, quando è il tempo che torni si fa il ghese, è così, avanti i capri. Eia, eia, facciamo il tutto, non c'è problema. Infatti, la mettete lì davanti, poi già va bene, vai. Ok. Vabbè ragazzi, io vi saluto, dai, che me ne esco un po' col cane, se ci siete ci sentiamo dopo. Ok, avanti Gianni. Gianni? Sì, Gianni non risponde, vai vai a portare il cane, non c'è problema. Già sono qua io. Cappa cappa, va bene, avanti capri, mi prendi tu, ci sentiamo dopo. Oia, come? Perché ero con un watt, per forza. Sono riuscito a portare la 4 watt e ho due filtri anti-TVI, uno dietro l'altro, perché sennò disturbo. Di così non posso entrare, non posso operare, capito? Ehi, al grido. Vabbè, va, rimango in stand-by io che sto guardando roba al computer, sto guardando già. Al limite sei entrato dopo quando entra Claudio, ma ero già entro pure io a fare due battutine, va, ci sentiamo già. Ciao ciao già. Eccomi qua Capri, ci sei? Capri? Vabbè, lei va di navigato. E beh, sono preso Giuseppe di Sorso. E allora la sciolgo. E poi cosa? Cosa ci ha fatto la volta? Sembra a te sia la volta tu. Benissimo, benissimo, alla grande. E tu come stai? E uno come te l'hai missionati. E un burro come tu. E un burro come te l'hai missionati. Dal 1° gennaio, la faccio in ferie. E a 40, che ne ha fatto 40 lui. Arrivati siamo a tu. Oramai abbiamo buttato la spugna, largo ai giovani. Chi io mi lamento, non mi lamento, ma che cosa mi posso lamentare che ancora mi sono abituato? Ad una manzana mi dice tu chi sura tu, capito? L'unica cosa che ancora non mi sono abituato. Anche stamattina, che era domenica, mi sono uscito a Duchizzo. mi sono trattenuto un po' a letto, però mi sveglio presto, oramai la sveglia è ancora nella testa. E io no, la succede passare inverno, però io non sono un girellone, capito, non mi interessa. Stamattina sono uscito a trovare un po' di amici, un aperitivo, una cosa, all'una ero a casa, poi ho guardato i battiti, riposino e poi sempre a casa sono. Non è che sto a stare in giro, tanto domani lunedì me ne vado al mercatino, però giovedì ancora non ti sei abituato, capito? No, non ne ho sveglia io, non ne ho mai avuto sveglia io, no, tu. Io all'indoro a Brocci me ne beso, non ho venuto da là, e sto continuando a fare così purtroppo, perché evidentemente il meccanismo ancora non si è rassegnato, capito? E vabbè. Piano piano gli avvarimo, vai, e poi c'è la campagna, ti vaghi, sono un buon che tappa in oca pure la carriera. E infatti il tempo è quello, ma ti dico che vedi già tu, l'attrezzatura vai pagate, papà, io non c'ho niente, poi la campagna non ne ho. Non ne ho. E quindi come c'è tu, insomma, quindi ti puoi pagare. E vabbè, l'importante siamo arrivati pur caro piano già. Il tempo già passa. Dallo 76, pari realtà di pari, insomma, io che... Ma tu attinamente che la cooperativa Trentalini, che la cooperativa Quattro Mori, SRL, magari la chissà chi vede anche via Rubalazzetto, chi via Salomo. Ma mi sembra che era un'impresa di manutenzioni, boh. Io mi ricordo di questa impresa, perché ce l'ho come contributi, mi ricordo di questa impresa, di questa cooperativa, ma non mi ammento di aggiungere la vagliata con Edibu, se in Chivi Trenta Leniche o fuori da Leniche, ma infatti neanche io mi ricordo, perché non era neanche Leniche, hai ragione, quindi era una ditta esterna che mi sembra che stavano facendo il lavoro del pontile, perché poi l'aveva abbigliato tutto, mi sono trovato e l'aveva abbigliato tutto la Sacce, ma... ti parlo molto dopo, forse nell'86-87, mi pare chissà cooperativa, in vera Gojo, un capo cantieri era, come si chiama, Paulino Gosso, attivamente, e io me lo ricordo, sì. Ah, ho già visto, l'ho visto anch'io, l'avevo visto la festa grande, non connette, è fuori connessione. E io avevo trovato anche l'altro, quell'assistente che c'era alla sicurezza della Zona Progetti, che su muro, mi pare Beppe Grillo, attenamente, va via Ribelli Bianchi, va via Beppe Grillo, va via Ugabo e Moscio Vireda, chi sono a te, se hai giunto a vedere la giura, hai giunto tutti rincoglioniti ci sono. Cosa? E tu? Se ne riesco a muovere un po', perché molte mattine faccio commissione a mia moglie, adesso domani mattina vado a andare con mia figlia, devo accompagnarla in banca perché sto facendo un'operazione. Ciao un po', come già ti telefono scendo, guarda, andiamo a visto una cosa in garage. Ciao Anto, mi ha fatto piacere sentirti, saluta tutti a casa, dai, già ti telefono e ti vediamo, ciao. Vabbè, Capri. Capri. Ebbene, quasi la grappa, io sono qui. Ho chiamato poco fa, non mi ha risposto nessuno. E Gianni che fine ha fatto? Lumito c'è. Non ha risposto più neanche quando ero con Gianni Capri 2 parlando. Quando tu sei andato a portare il cane, no, da lì non ha più risposto. Si sarà dormito, se no era telefono. Va bene. E Capri 2 non c'è più, Capri. No, su Capri, non stava più avvicinando quella pioggerina fine qua su. Forse Gianni è andato a portare il cane, non lo so. Ma qui lo condo, non è entrato. Ah, boh. Io mi ascolto ma non sento nessuno. Ok, va bene. Gianni, ci sei? Capri? Non c'è. Quindi hai tornato a mettere a 4 watt? Sempre a 4 watt sono, più di più non posso. Perché erano 4 sono là. ci sentiamo poi, già non c'è bisogno di sta manetta, non dovremmo attesci. Sì, fa. Uscire domani piove, se vuole non mette. Ma quando piove domenica mandava, ma entro la settimana, non trovi scatto, non quasi combinare nulla, devo uscire domani mattina. Volevo uscire in moto. Andare a piazzare segni in macchina, hanno lavorato in posteggio, è un casino, Rugna, Rugna, la matta settoria. Rugna per mercatino, e chi? Infatti, andare al mercatino a prendere un po' di frutta, pure roba. Non andare in moto, invece. Se piove, sono fregato, tocca andare col catamarano. Vabbè, non chissà se buqui alla gatta. E chissà già i minori. Lo so, poi sono sempre vigile, adesso ogni lunedì. Capito che se tutti in una marciapiede in mezzo ai fiatri è un casino. Ti mettono la multa, perché Gianni Serra li ha sguinzagliati perché c'ha il fiato del sindaco sul collo. Lo so, un grande lavoro sta facendo un grande lavoro, più ordinato, sta essere molto più ordinata, capito? Ci sono più, c'è un po' più di rispetto, ho visto poche macchine sulle strisce, stalli invalidi liberi, prima di sempre in mezzo alle balle e tenanti. E gli sta bene se ti mettono la unità o si impara? Va bene, no. Va bene che occupano, soprattutto gli stalli invalidi, no? Non vanno occupati. È un diritto che hanno, bisogna lasciarlo libero. Vabbè. Proprio Romito di sì. Esso è Romito davvero. Lui è mutua così, sdraiato. A me mi aveva pigliato subito lo sonno mio. Mamma mia. Già a volte mi viene a sono venuta nella serie, figurati. Infatti io se tocco letto mi addormento subito, immediatamente. Poi contenti, e che faccia riguffimi? Mi asorraggo. Non è così, va bene. Attento Capri, se facendo da portare il cane. Sono per il lavoro che sta facendo la linea nuova, che aveva problemi, ha mandato il fontaniere, ha perso parole e tutto. La linea nuova del laccio dell'acqua. Ho visto il cane che c'ha due cani in corso, belli, anche poi sono belli. Ma duri soprattutto, so, puzzinosi. Sì, questi sono cuccioli, ma belli piazzati, Ma maschi sono, ma non ti fate una visita al giardino, Infatti c'è no, andiamo andare a Lugio, non ci arriva quella lontano, qua sei sempre ciò. Ne ha uno capa quella del mar qua vicino di cane corso, che era cuccioletto, no? E giocava col mio. Cazzo, arriva a 7 mesi devi vedere anteraccio. E si ripulia brincainante a Romeo. Se mi ribrinca in alto l'ammazza il giudizio. Cazzo Pokémon, è mostruoso quel cane, diventa il doppio. I grossi sono, però sono bravi, Se non listi sono bravi. Il cane diventa cattivo quando tu insegni a diventare cattivo, capito? Poi imparano, non vanno da là. L'insegnamento è molto, molto importante per il cane, capito? Infatti il mio è bravissimo, non fa male a una mossa. Vabbè, perché tu è piccolo, fosse stato un cane grande, poi ti dice per ammattersi cosa. No, poi non teme i cani grandi, è quello che è brutto. Si ripiazza da Nanzi, non ne ha fatti nulla del mano. Se giocava con una pitipo che era mostruosa. E lui non gli faceva niente perché si è accorta che era un cuccio, l'ho capito, se no se l'avrebbe mangiato. Lì il problema è anche Filippo quando rompe le scatole di questi cani piccolini, no? Questi pinche, chihuahua, questi cosi, come si chiama? Questi yorkshire. E lui sta fermo, capito? Però l'altro giorno uno di quelli gli ha morsicchiato la zampa, però ce l'ha fatto male, si è girato, se non la mantengono in cacaugato. Ah no, è quello che temo, che lì che gli faccia male, quelli si girano giustamente. Poverino, lui sta fermo perché si accorge che sono cani piccolini. Però dico, due volte io gatto, governo, come mi se Gheggi, e allora io mi giro, capito? Ma non è che avevo il guinzaglio teso. Se avessi avuto il guinzaglio lento, no? In bando, mi avrei staccato il gabbo, perché ha fatto uno scatto, si è girato, io subito, tum, l'ho tirato. E ho detto, questo ragazzo ce l'avevo, ho detto, stai attento, che Filippo è bravo, ma non è matto, non se ne vuoi mai, è chiaro che si girano. Infatti. Che so cani tu, e beh, davvero, solo che è troppo matto. Lui non sta lì. È un gatto. Adesso lui è seduto nella sua cuccia lì sotto la televisione, è seduto. Sbagliato, Se mia figlia a casa non si muove da lì, lui sta sempre lì, fermo, controllando, ne tanto altro gabbo, poi là si vede. Non si muove. È un gattino a casa, fuori è un po' diverso. Però a casa non ce n'è per nessuno, non ce n'è. Mi sicurezza quando ci corichiamo noi, viene lì vicino a camera letto, sicurezza. È un manzano, fitturando, se mi alzo io, allora mette a presso. Ma se io non mi alzo, questo a letto, allora lui rimane lì fermo stamattina. Capito? Stamattina io sono uscito presto, ho detto vai a coricarti, che non già viene subito. Sono andato a fare colazione, prende due pasti alle signore, e è andato e si trova da cucca. Quando ho aperto la porta, era dietro la porta e già voleva uscire, allora l'ho portato. Ma io che faccio così? Il mio burro è bravo. Adesso c'è mia moglie, non sta bene, è cucata, è influenzata, della CFA è influenza, al caldo deve stare, al caldo, porta un turcane, non lo fa uscire, c'è un bel umidità, io sono uscito con lo fa con il giubbottino pesante, portato il cane, me ne sono rientrato subito, ma saremo pazienti, che questi cambi di temperatura così all'improvviso, che siamo passati dal caldo mostruoso, adesso c'è la temperatura abbassata, c'è molta umidità, poi oggi ha piovuto, quindi bisogna stare attenti. Infatti poi è dalla bicicletta subito, che soffre di bronchite asmatica. Oh yeah. Ma vediamo un po'. Oh yeah, yeah. Già l'ho portato io stasera, ieri lo stesso l'ho portato io. Tu l'hai imbucciato, io adesso quando sono a casa mia moglie non lo sta portando più, lo porto io, no, non c'è niente da fare, non lo mai, lo porto sempre io, c'è qualche giorno, se domani è bello volevo andare con lui, per fare sedi, così a fare un giro, tanto già sta guinzaglio, già farà bravo, però se piove non fa, si sporca tutto, l'ho lavato a poco. Infatti, oggi era tutto in fusi, no, che andava di bucciato. E io poco fa, stesso, quando sono salito gli ho asciugato tutte le zampe, con la sua, c'è un rotolo, quello industriale di Scottex, no? Che compro lì a Bricco, capito? Quello grande, lo usiamo solo per lui. Stanno consumando un bel po', tutto asciugato, tutto pulito, colorato il suo deodorante, adesso ne metto il pigiama ed è pronto a cucarsi. E quando piove, cammina con la punta dei diti per non imbruttarsi i piedi, per non fondirsi i piedi, infatti riuscire lì. Dico cammina, beh, mi sembra un guasto, cammina piano piano con le punte dei diti, quando ve la posso anche dalla scarta. Capito? Ma se li buono e bevi la bozzanghera. Ma come puoi dire che non comprendi i americani? A base se non comprendi. Infatti mi ha detto a mia moglie, ho detto, è andata la Filippo di Garo il Civari per l'inverno, così quando esce non si bagna i piedi. Oh yeah. Che si va. E tu ridi, lo sai che alla casa degli animali ci sono delle scarpine in gomma. Per i cani, capito? C'è destro e sinistro, anteriore e destro e sinistro posteriore. Io devo comprare un giubbotto impermeabile. Oh, Natalia, ti faccio ridere, non ha già avuto qua Filippo, ha girato tutto, non ha già avuto, allora gli era fatto la mano. madre di la suocera di mia figlia praticamente, che aveva un kiwi vecchio e gliel'ha fatto lei, ho la macchina a cucire, bello, con i bordini per mettere le zampe e sotto la pancia la cerniera, capito? Chi era fuori Italia, ha detto non fai più Romolo Fanari, è morto, Gino era andato in Chibi che vedi ai fuori Italia. E fa questo gli avviserà? No, per tuo sì, anche per quello di Gianni che è un po' più stretto, capito? Ma Filippo è troppo largo. Ce n'era uno, XXL, 3XL va via. Li abbiamo provato in via Duca degli Abruzzi. Gli entrava da dietro, riuscivi a metterlo. Come se arrivi a Robetto, non chiudeva la cerniera. Fuori Italia è finito. E allora, infatti mi ha detto quella della casa degli animali, Leonora, mi ha detto guarda, ci conosciamo, facciamo una cosa, ne prendi due, le porto alla sarta e te li faccio cucire. Ma te nani, 40 euro l'uno, 80 euro paeto, no, lascia perdere, già glielo faccio io. No, ho detto alla mia figlia, ho detto alla socia, ho detto già glielo faccio io. C'aveva un kiwi anche abbastanza spesso, nero, e gliel'ha fatto. Bellino, mi sembra comprato. Ho fatto i fori, non dalle maniche, davanti, poi dietro, ho fatto i fori bordati con la macchina a cucire. E sotto la pancia c'ha la cerniera, capito? Ma è pure bello, rimane il vemmo, quando devo usare, io fare il lutto, vai, tutto niente. Grazie a me, tu devo essere troppo dopo su gatto. La sua mia genere io mentivo con me, ma ciò che sopra la schiena, compro l'adesivo della Juventus, se glielo mettiamo, e te se lo unisci che vuoi. Ai ai ai, alleluia. Vabbè, cosa ci vuoi fare? I cani, o vedrai o non vedrai, non c'è niente da fare. Se ce l'hai, deve essere ben tenuto. Sta bevendo, la gente che sta bevendo devo asciugare il muso, aspetta. E questo quando beve devi subito stare attento, se no passi e ti allaga la gassa, quanti bicinetti. Filippo, adesso vengo io e ti prendo tutti gli schiaffi. Ma i denti, chi è Pippo? Ma i denti, lui, lo butto per il dorso, tanto anche a dolce collo. E adesso vengo e ti addrizzo il collo, ti addrizzo. E vi porto anche a Massimiliano, così ci stiamo forte. Senta che da botta. Stiamo facendo la pizza. E dottate sotto. L'unica cosa che mi gaggi in terra, no? A poi essere un cosettino di origano, e due giuringhi, a poi c'è una fuori, e due giuringhi, sempre l'inghemi. Corrarito. È allucinante, non si muove da anch'io, E se no quando stai mangiando c'è la pizza, poveri bianchi. Tutti i bordi te ne mangia, Sta lì seduto, aspetta, fino a quando è finito, tutti i bordi sono i suoi, capito? E tutto questo che mangio io vuoi essere una testa di buono, si bosa, anche io sananzi da paita, mamma mia. Sto cubrivo di mangiare un pezzo di pane, anche se non lo vuoi essere. No, il pane ne sto dando poco io anche lì. Però oggi a pranzo sera si è mangiato 4 banane si è mangiato, tagliate tutti a pezzi, messi nella ciotola, a pranzo ha mangiato solo frutta, stavolta le crocchette, allora non mangiamo noi pezzettini di così di pizza, no, sennò diventa troppo grasso. E in mezzo alle crocchette, buoni vini? Sì, e al bagno glielo faccio, glielo metto in mezzo alle crocchette, domani però, non l'ha già mangiato. Ma matto per le banane, matto. Se mangi la banana devi incannare e te ne abbiglia. Allora c'erano, poi mia moglie penso, gli ha regalato la tela quella giura. Un chilo di banane, più di un chilo, però un po' toccate, ma mi ho fatto la Macedonia questa. E invece per la pelle di tappetta era da Rugani. Sì, già così al manco, già le basere. E la frutta lui le fa un bel bene. Per questi cani micidiare va benissimo, la grande, però non è che li ho cuidare sempre, capito? Ogni tanto, se no perde, se lo frutta non va bene, perde peso. Ma sono belli i miei quelli di Gianni, caspita, giuviti, niente, tutti e due, andiamo a seguire se vuoi. No, chi è marro metallizzato, che ma là non c'è vedo chi su di carmela Rugani. Ma davvero è. Poi massiccio, cazzo, da 7 mesi, ma tu lo devi vedere. Bello marrone. Anche quello di Mario lo stesso è marrone. Ma perché a me aveva vicino, no? Vieni, come te lì, Fippo, vieni, vieni a mamma, mi sa cosa c'è dentro, va, e subito baffi. Fippo, che c'è Filippo, c'è cui? E subito baffi, mi rovina le noghi, come facciamo la mamma e parto tu. Dalle qualche dice di qualcosa. Capri, Capri, Capri, Peppino di Capri. Che proprio lui mi si è addormentato. Ora ha telefonato anche uno. Rimane dello Zebedo. Doppio. E se su Ragoni e Pista Rugani lo sarà a chi devi sì. Anzi è in ritardo, non l'ha portato all'essere, forse l'ha già portato il cane. No, di certo l'ho portato dopo di me lui verso quest'ora. Però gli ho detto portalo prima perché se non iniziamo a più vicinare, capito? Ho portato qua nel giardino, io sto pieno di alberi. Così è riparato, capito? Grazie, è tutto bagnato. Quando va a vedere mia moglie, il cazzo lo vede a quel tenda, tu cazzo, tutto comprendi. Ok. Diciamo che il mio sta sotto la televisione, soprattutto quando c'è musica. E si trova, a quel tenda la musica. Mi piace un bel, mi piace un bel la musica, capito? Lui ha, no, vabbè, ce l'ho avvisato domani è lunedì, e mi devo avvisare sì. Piovendo, stamattina mi stava piovendo, guardato la finestra, ho trovato Rubigno, te, Arrangia, B, mi sei guardato a cucare. Hanno figli Rubigno? Cazzo, stamattina non ci riesco, mi sto svegliando un bel presto la mattina, un bel presto. Perché mi dice, ma cosa ti svegli a fare? La mettune. Non c'è niente da fare, mi sveglio presto, poi rimango un po' a letto. A che d'ora? 8:30 me ne invece, quando dava. Vado per le scene, prendermi un caffè, le sigarette e poi mi ritorno a casa, verso le 9 porto il cane, no, non c'è niente da fare. No, quando dava, ma ora già abituato. Ah no, te lo porti sempre quello. Anche a me mi fa così, a che d'ora mi ne va. Mi dicevo, ma poi non ti arriva. È talmente l'abitudine. Infatti mi stavo parlando con un fraconero ancora. Ci fa lui, non gli ha pesato, ma mi è andato in pensione. Capito? A me ancora non mi sono abituato. E passerà. Però già da sapere che sono libero la domenica, le feste, che mi posso, ho capito, organizzare. C'è anche domenica mattina, ci vediamo domenica mattina, andiamo, e io devo, sto lavorando. Mamma mia, guarda, signore di canti vecchia, giù passato travagliente, per carità di Dio. E lì quando si lavora anche la domenica, i giorni di festa, è brutto, ma purtroppo se si deve fare, non c'è nulla da fare. Niente lì, ma se lo sta passasse lì, capisci? Noi si a fare picco, e finisci presto, fai i controlli e poi te ne rientri, ma se tu immagini che devo andare a Sorso, prendere la macchina in servizio, usciti a Punta di Casino, devo un'ora andare, un'ora tornare da solo, di viaggio, cosa fai? Anche di più a volte. Tutto il giro che devo fare si fa l'una, si fa mezzogiorno e mezza, l'una, a volte anche le due. E ci sei stata a Sassari, magari avevi anche la possibilità di prendere un caffè con qualche amico, capito? Fatti vedere lì e ci prendiamo il caffè. Invece mai, mai e poi mai. Quando sei fuori non c'è nulla da fare. E io che stavo 12 ore sempre andando, adesso quando facevo il corriere, 12 ore mi sempre andai. E io l'ho fatto anch'io quel lavoro, non tari. Io partivo la mattina alle 6 e rientravo alle 6 in deposito, mi preparavo la macchina per la mattina e arrivavo a casa che erano in 8:30 quando noi eravamo in 9, capito? Mettevo tutto il bollo a giro, tutto il lavoro organizzato, mi organizzavo anche per l'altra macchina. ne avevo due, e così era. Così era nata lì, certo a fare. Poi avevo fatto il concorso, quindi ero entrato dove mai sono andato in pensione, però quel lavoro l'ho fatto, ed ero giovane, però non è un lavoro che puoi fare a vita, quello no. Un lavoraccio è maledizione. Non so, guidare è una cosa che a me piace, però con andare al tempo poi ti stanca e ti fianca pure, perché non hai più schiena, potrei stare seduto a guidare. E allora, e tu ti rimarranno, che faccio? Mi raggio pigliati per il suo travaglio, a vento, nevi, di tutto giù. Quello non ne parliamo. Tempo brutto perché fa quel lavoro, quando c'è il gioco, quando devi caricare, non è che stai a guardare se sta piovendo o non sta piovendo, devi caricare con segnale e continua a camminare, se no si va di buccio. E infatti, io sapevo. Sei sempre preparato, la cena tu l'hai preparata. E io la preparo a che cosa? E io. Ma cosa vuoi, aspirina, beh, antenna 1, numero Dino. Mamma mia, come sto? Becla, io gira, vado e preparo qualcosa, ci sentiamo alle pruse. Ehi, Antalì, dai, io mi asciugo un po' il TV e poi aspetto sia pronto la cena, dai. A domani, ci sentiamo, ciao Antalì. Ciao.